24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. La prima volta che D'Anizza ha avuto un'anestesia, perché avendo il radiocollare anche da sostituire l'ha già avuta altre volte, e questa volta, ahimè, non è sopravvissuta. Questa è la canzone latinoamericana dell'orso Yogi. Se può cantare, se può ballare, se può recitare. E mangiare? Siete pronti? È pronto? È facile. Uno. Uno. Due. Due. Tre. Tre. Quattro. Quattro. Forza. Tre. Quattro. Via. Oh, vi avviso, cari italiani, se non sapete tutto della vita e della morte di D'Anizza, siete degli sfigati cosmici oggi in Italia. A colazione, a pranzo e a cena. No, no, no, colazione, pranzo e cena, no, mica che si mangia l'orso. Già sì. Per abbuffarsi tutto il dì. Yogi, la vita brunica di cestino. Allora, l'orso. L'orso, l'orso dappertutto. D'altronde, di che dobbiamo parlare? Delle elezioni del CSM. No, facciamo un sondaggio rapido. Miriam Lucchetti, buongiorno. Dobbiamo parlare delle elezioni del CSM o dell'orso D'Anizza? Se è l'orso D'Anizza, alza la mano. Alzato la mano. Peter Bescapè, tu devi alzare la mano che ti stacchi dai pulsanti. No, alzato la mano per un attimo. L'orso D'Anizza. Allora, attenzione, perché lo so che siete tutti molto sensibili, questo è l'argomento, eccetera. Vabbè, questa è 24 mattino. Sono le 6:33 minuti, non c'è giornale che non metta in prima pagina l'orso D'Anizza. Addirittura il quotidiano nazionale ci apre. Addio, orsa. Sì, non ho visto questi grandi articoli, queste prime pagine per lo sgozzamento e l'uccisione di tre suore in Burundi, Però, così, noto. In ogni caso, alle 6:34 minuti, vogliamo aprire il Parlamento nel giorno in cui si chiude la 71esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province? Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. Parlamento, forza, forza. Nel giorno in cui, intanto vi annuncio subito che alle 9:05 avremo il presidente della provincia autonoma di Trento ai nostri microfoni, Ugo Rossi. E guardate che averlo oggi è, come dire, uno scoop, perché ricercatissimo, nonché insomma, accusato di avere organizzato tramite provincia di Trento tutta questa uccisione di Stato. Saluto, un grande ritorno intanto, Alessandro Giglioli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, ciao a tutti, ciao a te, buongiorno a tutti, non so cosa devo dire, buongiorno. Non so, devi dire io sto, queste cose un po' patetiche, io non sto con niente, quando però ci sono su Twitter, io sto con D'Anizza, vuoi dirlo? Io sto al telefono con te, dai. Ecco. Vabbè, a un certo punto ieri in redazione Elisabetta Fusconi ha sbottato, ha detto basta, anch'io sto con Danzica. No, esatto. Vabbè, saluto Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, buongiorno Massimo. Buongiorno. Morire per Danzica, morire per D'Anizza è ovviamente anche Libero oggi in prima pagina. Dove l'avete messo qua in prima pagina? No, la foto. Ah, eccolo qua. Assassinata l'orsa, colpevole di fare l'orsa. Ecco, questo. Vabbè. Ma poi, sì, secondo me facciamo male a derubricare, è vero, come dici tu, che non suore ne abbiamo parlato male. Ma questa storia dell'orsa non riguarda l'orsa, riguarda noi, rivela moltissimo di quello che siamo noi, per quello che è importante. No, ma per carità, ma io non sto. Ma noi chi? noi uomini, noi italiani, no, voglio dire, noi italiani che spendiamo 4 milioni di euro per importare, per ripopolare le montagne di orsi, e poi quando ci accorgiamo che invece che fare i peluche fanno gli orsi, li ammazziamo. No, io la vedo in un altro modo, Tipo? Cioè, rivela molto di noi, cioè anche della fabulazione adolescenziale, se non infantile, in cui ci stiamo avvitando a fronte di una realtà concreta che non ci piace, che ci amareggia, che ci delude, che ci terrorizza molto spesso, e allora entriamo in questa dimensione quasi disneyana. Ora, io non credo di essere un antianimalista, sono pure vegetariano da quasi 30 anni, quindi non penso di essere un antianimalista, però evidentemente qui c'è una dimensione disneyana fabulatoria, favolistica, nella quale siamo entrati e tutta la nostra sensibilità la canalizziamo lì anziché su altre cose. Ma non è così, guarda, è che siamo un popolo un po' bambino, non lo so, ma ragazzi, io sono stato quest'estate in Canada, dove vivono, c'è un turismo legato anche agli orsi nei parchi, ma riderebbero di vedere i titoli, gli articoli, cioè il dibattito, ma riderebbero di vedere politici che si schierano pro o contro l'orso, cioè capisci, questo Massimo De Manzoni, voglio dire, l'esagerazione del dibattito, dopodiché la notizia. Ripeto, non è secondo me pro o contro l'orso, certo, si può viverne e si può leggerne in tanti modi, Giglioli può leggerne nel modo in cui la legge, c'ha anche le sue ragioni, dopodiché non è che se uno parla per due giorni dell'orso si è dimenticato tutto quello che sta succedendo nel mondo, perché in quel momento lì sta parlando dell'orso, ma ripeto, parliamo dell'orso per parlare di noi stessi, perché fare un programma per la reintroduzione di una specie, e poi accordosi solo dopo che questa specie ha determinate caratteristiche e non si tratta dell'orso yogi, è da matti. Quello che è successo in questo caso qui è che l'orsa ha lievemente ferito un cretino che si è messo dietro un albero a spiare i suoi cuccioli senza evidentemente sapere che questo veniva percepito come una minaccia, poteva ammazzarlo per confessione stessa dell'aggredito. Non lo ha fatto, si comporta in maniera umana, ma infatti siamo italiani anche in questo. Siamo italiani anche in questo. E improvvisamente cosa è successo? Che la provincia ha deciso di abbatterlo. Ha deciso di abbatterlo. L'ho seguito bene questa storia, anche perché ho caso in Trentino. L'ha deciso di abbatterlo. Poi sono intervenuti gli animalisti, si è resa conto che stava esagerando, hanno detto no vabbè, ora non la battiamo, meno che non la faccia la cattura durante la cattura, però la catturiamo. Allora, solo il fatto di catturarla, perché aveva era un'idiozia, ma perché è stata fatta questa idiozia? Non facciamo i bambini. Che sia stato un cretino, allora, quello lì. Si sono mosse delle lobby qui su questa storia qui. I trentini in generale non li vogliono gli orsi. C'è da dire che sia stato un cretino quel signore, effettivamente, che, sempre per citare l'esperienza in Canada. Banalmente ti dicono in Canada, se incontri un orso ci si comporta così. Basta, poi vai, se vuoi lo incontri, se vuoi lo cerchi, se te lo trovi, perché può capitare nei parchi, gestisci la situazione, a me fortunatamente non è successo, e via, cioè basta, scrive Vittorio Feltri, senti qua Giglioli cosa scrive Vittorio Feltri oggi in prima pagina del giornale, quest'orso che ha fatto la bua a uno sprovveduto cercatore di funghi, spero velenosi. E per questo, quindi, vedi. Non stiamo tanto bene con la zucca. Vabbè, ecco, subito. Tra l'altro questo qua sarà anche stato un cretino, non lo so, io non sono esperto di comportamenti di orsi, di fronte agli orsi, però l'ondata di odio collettivo che si è canalizzata verso questo signore è qualcosa che nemmeno fosse Hitler. Ma questo è chiaro. Oggi uno di quei finanzieri che è intervenuto e racconta come è morta Danica davanti ai suoi occhi, raccontando lo strazio, forse l'età, forse abbiamo esagerato con la dose di anestetico, ma forse lei, l'età, eccetera, dice per favore non scrivete il mio cognome sul Corriere della Sera, perché sennò, voglio dire, ci sono in giro certi certe persone che se si sa il mio cognome, la mia identità... In questo paese esistono anche i nazi animalisti, per usare un'espressione che... Questo è verissimo, è verissimo. Ripeto, lo dico da amico degli animali. Da amico, amicissimo anch'io, ho un gatto, ecco, questo, mi limito a questo. Può bastare, come quando si dice ho un amico gay, quindi non sei contro i gay. Cioè, hai un amico gatto. Ho un gatto, quindi non sono contro gli animali, assolutamente. Allora, vabbè, dai, vogliamo parlare anche di qualcos'altro? Giglioli, come va? Ah, ecco, Giglioli, devo dire una cosa. Avrò ospite anche alle 8:15 un tuo grandissimo amico, il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, della Lega, colui che ha fatto tutta una serie... È proibito appoggiare le biciclette ai pali, lo trovo. Legarle ai pali, non appoggiarle. Sì, aspetta un attimo, devi guardarla bene la... Adesso non mi ricordo se anche appoggiarle, perché l'avevo vista, ce ne sono di meravigliose, di quelle. Sì. No, stendere i panni in centro. Siamo di fronte a un'ossessione fobica, no? Perché anche qua io credo che, non so, forse ormai ho un'età, però penso che nella vita le cose vadano fatte sempre con un certo equilibrio, un certo balance, una certa intelligenza. Sì. L'ossessione per il decoro rischia di diventare come quelli che hanno ucciso qualcuno e si lavano continuamente le mani. Sì, però dall'altra parte c'è da dire che le città fanno schifo ormai, fanno sempre più schifo, perché la gente è incivile, la gente non rispetta le minime regole del decoro. Sono d'accordo, e l'altra faccia della medaglia è esattamente questa ossessione di grida manzoniane. Cioè è vietato stendere i panni, vietato fare questo, vietato fare questo. Se tu vuoi civilizzare la città, a parte che vabbè, è un discorso lungo, sulle persone molto più che sulle grida, ma e sull'educazione, sull'istruzione. Poi voglio dire, quelli che ci ruttano in faccia e poi ci dicono che vogliono il decoro urbano, lo stesso partito, per capirci, mi fanno un po' ridere, perché poi i comportamenti sono quelli che, no? Che danno l'esempio. Se io ho fondato la mia politica sul rutto, poi ho poco da fare una serie di caro Milan, Vabbè, vediamo un po'. Cominciamo a comportarci bene. Tu dici non lo accetti da un leghista che dica uno che. Ma insomma... credo che l'ossessione del coro condominiale faccia ridere, perché il decoro, o meglio la civiltà, la si ottiene lavorando ciascuno sull'altro, e se tu proibisci di appoggiare le bici o di legare le bici ai pali, non fai altro che aumentare il numero di automobili. Sì, d'altra parte qualcosa bisogna fare, non so, Massimo De Manzoni, tu che ne pensi? Vivi a Milano, io ho visto Milano, ma guarda, non ne voglio fare un discorso Pisapia, non me ne frega niente, ho visto... No, anche perché molti sindaci di sinistra hanno fatto grida uguali. Ma infatti ho visto Milano negli ultimi anni peggiorare notevolmente come pulizia, ma anche perché se tu concedi in una città europea, mondiale, un bivacco di centinaia di migranti che non sai dove mettere, che hanno passato l'estate ai giardini Indro Montanelli, nel Piero cuore di Milano, polmone di Milano, come vuoi che si riduca una città? Non so, De Manzoni, tu che ne pensi di quello che ha fatto il sindaco? Sono assolutamente d'accordo, dopodiché sono d'accordo in parte anche con Giglioli, nel senso che poi non è che serva moltiplicare i divieti e le cose, dovrebbe sopperire il buon senso e le leggi vigenti. Ne abbiamo più di qualsiasi altro paese al mondo, potremmo esportare le leggi che abbiamo e forse miglioreremmo anche la bilancia commerciale. Il fatto è che non le applichiamo e quindi ancora una volta facciamo una cosa all'italiana, moltiplichiamo le leggi invece che applicare quelle che ci sono. È chiaro che esistono già le leggi per evitare che vivacchino, come dici tu, e come abbiamo visto a Milano in questa vergognosa estate, centinaia di persone per le strade praticamente. Nello specifico erano anche i più innocui, perché poi ce ne sono di quelli che fanno anche azioni malvagie, queste era soprattutto degrado urbano. Però non è che non ci siano le leggi, io passo di lì tutti i giorni, tutte le sere in particolare, quando torno dalla redazione. Oh, ed è nel cuore di Milano, avete presente Corso Buenos Aires, chi non conosce Milano, cioè la città, la via dello shopping che porta dritto fino in Duomo, no? Quella lì, non è che stiamo parlando della periferia, con rispetto. Porta Venezia, ci sono sempre 7 macchine dei vigili con i lampeggianti accesi che li guardano. Sì, e questi hanno costruito ormai delle piccole capanne, dei bagni, dei volanti, delle cose, ma perché poveri disgraziati anche dal loro punto di vista. Sì, devono vivere in qualche modo. Ma no? Cioè, non devono essere lì, non devono essere qui, non servono nuove leggi. Poi mi scrive un ascoltatore a dire: a Roma le strade sono zozze di escrementi di cani, e perché a Milano no? E lì sono solo non i cani, i padroni dei cani, a basta. Bastonate io li prenderei, ogni volta che vedo una merda di cane prenderei il padrone a bastonate. Ecco, forse le grida manzoniane no, ma una bella piccola bastonatina tra capo e collo al padrone del cane, quella secondo me è molto più efficace. Il traffico. Oh Milan, brutto del bosciato. 24 mattino. Milan, sinceramente sono scioccato da questo quotidiano stillicidio di poliziotti e carabinieri che vengono aggrediti da barboni, da pazzi, da ogni genere di esaltati. Hai detto, Milan, giovedì mattina hai detto che 4.000 euro sono due notti d'albergo e tre o quattro cene? Ma sei impazzito? 4.000 euro, due notti d'albergo e tre o quattro cene? Io con 4.000 euro ti faccio due mesi di ferie. 4.000 euro non sono niente. Ma c'è gente qua a Torino che va a abbassare nei bidoni dell'immondizia per recuperare due foglie di insalata per portarsi a casa, una mela marcia per tagliarle a metà per mangiarti il buono. E te mi dici che 4.000 euro non sono niente. Ma è possibile che gli italiani abbiano la mente così chiusa da non capire quanta disinformazione c'è? Caro Milan, mi fa una cortesia? Vuole ricordare lei al signor Renzi, che afferma di avere il sostegno del 40% dei cittadini, che in verità lui ha il 40% del 58% dei votanti alle europee? Questo vuol dire il 23,2%, quindi lui ha il sostegno del 23,2%, tutti gli altri di Renzi se ne fregano. Saluti cari. Volevo sapere una cosa, stamattina vado in metropolitana, devo obliterare un magistrato? Straordinaria questa, chi non ha seguito ieri l'avvocato intervenuto dicendo che i magistrati, caro Massimo De Manzoni e Giglioli, sono obliterati di lavoro e quindi ha subito suscitato l'ilarità di questa signora che vuole obliterare oggi un magistrato in metropolitana. Allora devo dire, per parlare di quello che è successo in Emilia Romagna, sì, mi hanno criticato, ma non è, sì, ho detto che 4.000 euro, e questa è l'accusa per Bonaccini, sono tre, ho letto così, 3-4 cene, ma che sapete, magari hanno fatto le cene con 50 invitati, non lo so, e le due notti d'albergo in realtà sono per Matteo Richetti, credo a 350 euro a notte a Riva del Garda. Comunque la notizia è che pare Bonaccini verso l'archiviazione, capito Giglioli, l'archiviazione, cioè poi dicono che la giustizia non è veloce, capito? Due giorni, tac, e via. Adesso devono dire che è orologeria anche l'archiviazione, però se hanno detto che era orologeria, certo, ovvio. È ovvio. Comunque guarda che quella storia di 4.000 euro non regge, cioè? Poi commesso un reato non l'hai commesso. Se sono poco, o hai commesso un reato, o hai fatto speculare. Ma non sì, l'hai fatto, ma, su ma su questo poi, io, ma su questo che, non c'è dubbio. Che archivi, no, anche se. Ma non è che mi sta simpaticissimo, però spero che sia assolto, anzi che non sia. Ma no, ma guarda, ma non c'è dubbio, ma anche rubare, ma non facciamo, cioè è chiaro che anche rubare 10 centesimi vuol dire che hai rubato 10 centesimi, però voglio, ieri io ho semplicemente detto di cosa stiamo parlando, perché spesso si dice: ah, là, è accusato di aver rubato. Stiamo parlando di 4.000 euro, non ho mica detto che 4.000 euro. Lo so, io quella volta non ti ho ascoltato. Quindi... Ma sì, o forse ho detto niente rispetto alle ruberie delle regioni, no? Quando sentiamo i 100.000, 20 milioni, ma mica con questo a dire che uno può rubare 4.000 euro e farla franca, se li ha rubati deve pagare, questo è giusto. Però De Manzoni, tu che ne pensi di questo rapporto tra la sinistra e i magistrati in Emilia? Beh, intanto devo aggiungere che 4.000 euro, sì, il cote è caduto su un paio di mutande verdi, cioè poi sono le cose... È vero. Che valgono forse anche meno di 4.000 euro, però il problema lì è che verranno tutti assolti alla fine o archiviati, perché è un regolamento, cioè i soldi che diamo ai gruppi consigliari sono per definizione fuori controllo, glieli diamo e basta, è sbagliato darglieli, punto, non si capisce ancora perché glieli diamo, ma questa è una storia antica di cui abbiamo già parlato. La prima volta che sono venuto nella tua trasmissione, se ti ricordi, di abolire il finanziamento pubblico dei come partiti. No? Di cosa penso del rapporto tra il PD e la giustizia? È che è un cortocircuito bestiale. È chiaro che dopo aver gridato usato per 20 anni le inchieste per fare politica contro il nemico, adesso si ritrovano a far politica tra di loro. Tanto. Nel caso specifico, poi, giustizia della Ruggeria non c'è stata. È detto da me, dovrebbe farmi essere una garanzia, non c'è stato affatto, perché i magistrati per una volta non hanno fatto uscire una carta, non hanno fatto un atto, non hanno fatto assolutamente niente. È stata una guerra interna praticamente, è stato Ricchetti che nel dire io mi ritiro ha creato tutto. Ma infatti Renzi indagato, quell'altro ha indagato anche lui, cioè è una guerra addirittura interna, la magistratura e le inchieste usate per regolamenti di conti all'interno delle correnti, delle sottocorrenti del partito, è una degenerazione bestiale. Bestiale, vabbè, sentite Ricchetti che ha fiducia nella magistratura. C'è un'indagine, che è un'indagine avviata 2 anni fa, di cui eravamo a conoscenza e che oggi mi vede nel registro degli indagati. Guarderò quell'indagine non solo con la fiducia che mi caratterizza verso la magistratura, ma consapevole del lavoro scrupoloso che stanno facendo, ma anche consapevole che noi siamo già fin da subito a disposizione, perché una cosa conosciamo bene ed è il nostro operato, il nostro modo di lavorare. Vabbè, fiducia nella magistratura. Allora io vi devo salutare, Massimo De Manzone, Alessandro Giglioli. Sai che in prima sulla stampa Giglioli, per chiudere dove abbiamo iniziato, sempre parla. Il cercatore di funghi, quello che spera essere velenosi, Vittorio Feltri. Ma gli consiglio di emigrare per un po'. Ha detto non ce la faccio più, da un mese mi minacciano, mi insultano su Facebook, sui social network, basta, voglio uscire da questa storia, basta, non ce la faccio più. Parla il fungaiolo accusato di essere da molti all'origine dell'uccisione poi di Danica. Vabbè, ne parleremo dalle 9. Intanto grazie, alla prossima. Bogotà, deragliamento di un treno a Bogotà e sono morti 250 persone, 758 feriti. Tu ci stavi sul treno a Bogotà? No. E allora che ti cazzia fa? 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. E allora, eccoci qui, cari italiani, alle 7:16 minuti, cari debosciati, come state? Rallentati nelle vostre manovre mattutine prima di andare al lavoro, state facendo colazione, siete già in pista, come si suol dire? Perché qui la 71esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province, volge al termine. Con un nulla di fatto purtroppo in queste due occasioni, ma come dico sempre, la 72esima settimana decisiva è alle porte, chissà che non sia quella decisiva per la riforma elettorale, per l'abolizione delle province. Ottimismo, settimana prossima qualcosa succederà, me lo sento. Intanto vi ricordo che oggi parleremo con il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, colui che ha ordinato una serie di divieti, non si possono stendere i panni, non si possono attaccare le biciclette ai pali della luce, non si possono sporcare, non si può fare il meretricio, non si possono fare tutta una serie di cose per il decoro urbano. Parleremo di questo con lui dalle 8:15. E di questo tema, come parleremo dell'orsa Danica, come no, alle 9:05 avremo il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, ai nostri microfoni. Partiremo da lui per capire, anche questo è un po' impazzimento forse dell'opinione pubblica su questo tema. Comunque, state con noi e lo scoprirete. Intanto i giornali. Questo venerdì 12 settembre, che se fosse stato venerdì 13 sarebbe stato molto peggio, vi assicuro. I titoli, il Sole 24 Ore, Draghi, investire per crescere, questo è il titolo di prima pagina che è anche sul Corriere della Sera. Non crescete, conti a rischio, la BCE sferza l'Italia. Anche per Repubblica, Draghi, investire o niente ripresa. Rivolta sulla sanità. Il Fatto Quotidiano, BCE, l'Italia sempre peggio, ma Renzi pensa alle poltrone. E tra l'altro sulla questione sanità e la battaglia governo-regioni anche altri giornali titolano La Stampa, sanità allo studio, i nuovi ticket, mentre Il Messaggero taglia la sanità, ecco il piano. Sanità, regioni in rivolta, invece il Quotidiano Nazionale, mentre il giornale Euroburocrati da strapazzo, ci tolgono altri soldi, questo è il titolo di prima pagina. Libero invece si concentra sui guasti dello svuota carceri di luglio, il titolo è questo, scippatori liberi in nome della legge. Questi sono alcuni dei titoli, ne vedremo altri, ma intanto voglio leggere alcuni articoli a partire dalla notizia che è apparsa ieri sul Corriere della Sera dell'indagine per corruzione internazionale, questa è l'ipotesi di reato della Procura di Milano nei confronti anche dei vertici dell'ENI, perché è indagato anche l'amministratore delegato De Scalzi oltre al predecessore Scaroni. Oggi il Corriere della Sera torna su questo tema con l'articolo di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, raccontano a pagina 14 una parte dei soldi della tangente destinata anche ai manager ENI, questo è il titolo. Si ritiene che Scaroni e De Scalzi abbiano organizzato e diretto l'attività illecita di corruzione in Nigeria. La somma di 215 milioni, se non fosse stata bloccata da Gran Bretagna e Svizzera, sarebbe stata certamente destinata non solo a remunerare pubblici ufficiali, ma anche a pagare kickbacks to any managers, cioè tangenti a manager ENI e intermediari. Gli intermediari sono Obi Agayev per la Nigeria, Dinardo Bisignani per l'Italia. Questi sono stralci dell'inchiesta della rogatoria dei pubblici ministeri, la rogatoria internazionale, da cui si evince appunto il rischio di tangenti, come scrive il Corriere. Tra l'altro oggi anche Claudio Gatti sul Sole 24 Ore racconta in un'intera pagina, con un articolo che inizia in prima pagina, ENI in Nigeria, il nodo bonifici e il mistero del conto svizzero. Racconta Gatti, come sempre è soprattutto una questione di soldi, in questo caso parliamo di 523 milioni di dollari di sospette mazzette. E come ai tempi del Watergate, si tratta di seguire quei soldi e vedere dove portano. Questo sta facendo da mesi la Procura di Milano con indagini tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera e Nigeria. Tra gli indagati due nomi eccellenti, l'attuale amministratore delegato dell'ENI De Scalzi e il suo predecessore Scaroni, in concorso con altre sei persone sono stati accusati di avere partecipato agli accordi intervenuti per il versamento di ingenti somme di denaro a pubblici ufficiali nigeriani in contropartita dell'attribuzione a ENI e Shell del 100% della concessione denominata OPL 245 a titolo di mero favoritismo. C'è anche il mistero di un conto svizzero. Claudio Gatti si chiede in questa pagina di inchiesta su questa indagine di presunta maxi tangente ENI in Nigeria dove siano finiti in pratica la questione dirimente e a chi è andato un miliardo che ENI ha pagato su un conto gestito dal governo nigeriano. Dove è finito questo miliardo in tutto di dollari? Ed ecco qui insomma l'inchiesta, che è un'inchiesta molto, molto corposa, appunto l'intera pagina 10 del Sole 24 Ore, molto dettagliata come è abituato a fare Claudio Gatti. Tra l'altro parla Luigi Bisignani, che torna in auge dopo questa vicenda, lo fa con Luca Pagni in un'intervista a Repubblica, il titolo intanto è questo: l'ENI mi porta sfiga, tutte le volte che me ne occupo finisco in tribunale. Così Luigi Bisignani, che dice: ma guardi, io ho contattato un finanziere che conoscevo, Gianluca Dinardo, uno dei fondatori di Fastweb, mi ha chiamato e siccome tutti sanno del mio rapporto con Scaroni mi chiede se posso contattarlo per proporgli un'opportunità che si presenta in Nigeria per un giacimento offshore. Ne parlo con Scaroni, il quale coinvolge De Scalzi, allora capo dell'esplorazione degli ENI che conosceva tutti in Nigeria. Descalzi l'ho visto una sola volta, ogni tanto mi chiamava Di Nardo per tenermi aggiornato, finché un giorno ricevo una sua telefonata, era incazzato come una pantera perché mi rivela che sono stati scavalcati e che Eni è andata a trattare direttamente con esponenti del governo nigeriano. Da quel momento esco di scena, di certo tanto in un modo non brillante, e cosa sia successo? Perché li abbiano scavalcati? Perché poi sia tutto saltato? Non saprei dire. Insomma, dice Bisignani, non ho fatto una gran bella figura in questa storia. La mia consulenza in Nigeria non è andata in porto. Chi si è rivolto a me, Di Nardo, non mi parla più e finisco pure indagato. Come si dice, cornuto e mazziato. Questa è la versione di Luigi Bisignani affidata a Repubblica. E ovviamente questa vicenda è una vicenda che, secondo per esempio Libero, imbarazza lo stesso Renzi, perché scrive Libero: imbarazzo di Renzi per il suo uomo Descalzi, finito appunto indagato. Per rimanere in ambito economico, una notizia che certo le imprese italiane conoscono alla perfezione: i costi della burocrazia. Solo che adesso c'è una cifra, ogni tanto vengono date delle cifre. Bene, ora la cifra la dà l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, visto che ogni anno dopo l'estate la Commissione Europea presenta un paio di rapporti sulla competitività dei vari paesi europei. E racconta Luigi Offeddu sul Corriere della Sera come la cifra sia di 30 miliardi l'anno. Questo è il costo della burocrazia per le imprese. E scrive Offeddu: non ci sono misteri se in Finlandia il 5% delle imprese ha difficoltà nell'ottenere il credito dalle banche, se in Germania la percentuale è al 10% e se in Italia arriva al 25%. Chi avrà più difficoltà a stare sul mercato? Oppure, se un piccolo o medio imprenditore impegna 269 ore in un anno a mettere insieme la sua cartella delle tasse, verificarla, pagarla, sarà più o meno competitivo di uno che di ore ne impiega la metà o un terzo? Risposte ovvie, la palissiane. Il problema è che l'Italia è nella situazione che ho citato di dati peggiore dei dati che ho citato. E questo lo stabilisce la Commissione Europea. Tra l'altro, c'è un articolo molto interessante, un'intervista emblematica a corredo di questi dati. La fa Michele Farina sul Corriere della Sera, sempre, a pagina 5. Racconta la storia di una super manager, Alison Dayton, moglie del sottosegretario al tesoro britannico, che voleva costruire in Puglia, a Nardò, un resort pare magnifico. Voleva investire 70 milioni di euro in Italia, in Puglia, a Nardò, ma dice non si può. Era un progetto di ecoturismo, è fermo da 6 anni per colpa della regione e della burocrazia. Questa donna che viene intervistata da Michele Farina e dice: noi da anni veniamo in Italia con il sottosegretario britannico, abbiamo già una casa in Umbria, a Città della Pieve, dove abbiamo già fatto un'iniziativa, dove ci hanno ascoltato, dove l'incubo burocratico non c'è stato, mentre in Puglia siamo arrivati, abbiamo comprato la terra, abbiamo risanato gli ulivi. Abbiamo fatto dei viaggi di piacere in Puglia con i figli piccoli e mi sono innamorata del Salento. Era ancora da scoprire a livello internazionale, abbiamo cercato il posto giusto e 6 anni fa l'abbiamo trovato: mare, terra, ulivi, abbiamo sistemato tutto, abbiamo ribonificato una zona semiabbandonata con la spazzatura in giro, l'abbiamo resa produttiva, ora abbiamo creato un'azienda agricola locale, produciamo olio, l'area era edificabile, il comune di Nardò era entusiasta. Poi è cambiata l'amministrazione, abbiamo perso gli interlocutori, ci siamo rivolti alla regione, ci siamo impantanati, non siamo nemmeno arrivati a discutere di architettura. E racconta questa Alison Dayton: se io vado in America, magari il progetto riceve critiche, obiezioni, ma se ne parla, si arriva a un'idea condivisa. In Puglia non è stato possibile. Dopo il primo stop il TAR ci ha dato ragione, ma subito dopo è arrivato l'appello. Ora tocca al Consiglio di Stato, ma l'udienza potrebbe arrivare tra 2 anni, forse non si sa. Con chi ha parlato l'ultima volta? Chiede Michele Farina. Con un responsabile regionale molto in alto, ma preferisco non fare il nome. È arrivato dall'Africa anche il mio partner nel progetto, un broker del petrolio. In regione ci hanno concesso mezz'ora per rispondere. Possiamo parlarne? Cosa dobbiamo fare? La risposta è stata forse. Ma qualcuno vi ha chiesto soldi, ma neanche, non siamo neppure arrivati a quel punto, non è neanche un problema di corruzione. Ho investito anni, troppa passione per chiudere tutto questo progetto, ma quando l'incertezza si prolunga, penso, beh, il mondo è grande, vado a investire da un'altra parte. Eccola qui, la super manager in fuga dalla Puglia, investirei 70 milioni, ma qui non si può. Raccontata dal Corriere della Sera, pagina 5. Ma prima della pubblicità vi lascio con l'articolo che vince il premio di oggi. Mani sul volante per l'articolo che ci fa più incazzare della giornata. Emanuela Fontana sul Giornale, pagina 10. Lo schema è sempre quello, cari italiani. Soldi nostri, spese loro. Elenco di alcune spese dei consiglieri della Regione Autonoma Sicilia. Un mazzo di mimose, la gita della figlia, il canone RAI. Il canone RAI a spese nostre. La tassa sui rifiuti, queste alcune voci di spesa contestate sarebbero state pagate dall'ex capogruppo del PD all'Assemblea Siciliana Cracolici. Così dice almeno la Corte dei Conti. E poi 200 euro di elemosina versati alla parrocchia dal gruppo UDC. L'elemosina con i fondi regionali, l'elemosina, l'elemosina. E ancora 5, ah ecco perché era l'elemosina, perché erano 5 messe di suffragio del padre di Francesco Cascio, ex presidente dell'assemblea, nella parrocchia di Sant'Eugenio Papa a Palermo. Questo secondo la Corte dei Conti. Perfino le messe di suffragio, secondo la Corte dei Conti, a spese nostre. Che dite? Tenete le mani strette sul volante, Ben strette. Io sono un giornalista che vale 250 dollari la settimana. So manovrare notizie grosse e piccole, se notizie non ci sono so lavorare di fantasia. Alessandro Milan, il ciupa ciupa dell'informazione. Bene, bene. Tra l'altro mi scrive un ascoltatore che mi scrive via sms: io sono un prete e l'offerta della messa a suffragio è 10 euro, non tornano i conti. Beh, caro padre, voglio dire, in Sicilia sono stati generosi, pare, secondo la Corte dei Conti. 5 messe, 200 euro, quindi 40 euro a messa, se la matematica a quest'ora del mattino mi aiuta, o meglio se il mio cervello mi aiuta, che devo dire, tanto erano soldi nostri, per cui un po' di generosità anche nei confronti della chiesa e della parrocchia si può garantire, no? Questo succede secondo la Corte dei Conti in Sicilia. Invece dall'Europa la BCE, come fanno notare molti giornali, ci bacchetta con Mario Draghi. Siamo all'ultima chiamata per quel che riguarda la crescita. Non si perda più tempo. Questo ci dice la Banca Centrale Europea ed è interessante ciò che Alberto Alesina e Francesco Giavazzi scrivono in prima pagina del Corriere della Sera. Oggi il titolo è Promesse finite, il tempo scade. Proprio sull'onda di questo messaggio della Banca Centrale Europea, scrivono Alesina e Giavazzi: al prossimo Consiglio Europeo, che Renzi giustamente ha convocato dedicandolo alla crescita nella prima settimana di ottobre, il Presidente del Consiglio deve arrivare avendo fatto tre cose. Ecco i suggerimenti di Alesina e Giavazzi. Primo, una riduzione aggressiva delle imposte, da un lato aumentando e rendendo permanente gli 80 euro di maggio ed estendendo la platea di cittadini che ne beneficiano. Dall'altro, riducendo le tasse sul lavoro, un complessivo taglio della pressione fiscale pari a circa 30 miliardi. Secondo, tagli di spesa per la medesima cifra, e dunque 30 miliardi, alcuni da attuare contestualmente alla riduzione delle tasse, 10 miliardi, il resto nei 2-3 anni a seguire. Nell'arco di un triennio la riduzione del carico fiscale sarà così interamente finanziata. E poi, terzo, il capitolo da affrontare è il mercato del lavoro. È una delle riforme più importanti, è sostanzialmente pronta, serve solo la volontà politica di andare avanti. Il via libera del Parlamento alla legge delega sul lavoro deve però accompagnarsi entro l'inizio di ottobre al varo di alcuni decreti che, disegnando le nuove norme, in primis quelle che introdurranno il contratto unico a tutele crescente, spieghino in che modo il governo intenda attuare la delega. Questa è la strategia in tre punti che Alesina e Giavazzi suggeriscono per rilanciare sul fronte della crescita, in vista del Consiglio Europeo di ottobre, suggeriscono al Presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio che però è alle prese con il dibattito con le regioni. Le regioni non vogliono tagli alla sanità, insorgono. Il titolo del Messaggero è "Tagli alla sanità, ecco il piano". Piano dettagliato a pagina 2, pare che Renzi voglia recuperare 3 miliardi dalla sanità. E la protesta del ministro Lorenzin, che secondo Repubblica, in questo retroscena che trovate a pagina 10 e 11, Lorenzin dice: "Io non risparmierò oltre i 40 milioni. Questa è una frase che viene attribuita, racconta Michele Bocci su Repubblica, al ministro Lorenzin. E poi le regioni con per esempio Sergio Chiamparino sul Messaggero a pagina 3, presidente del Piemonte, nonché presidente della conferenza delle regioni, dice: "Si può risparmiare su altre cose, il patto per la salute non si tocca". Ecco allora che Renzi ha a che fare con questa protesta. E tanto che sempre sul Messaggero Andrea Bassi e Alberto Gentili a pagina 3 raccontano come Renzi viva questa situazione. "Non mi lascio certo impressionare dalla rivolta delle regioni", avrebbe detto ai suoi Renzi. "Di sprechi nel settore della sanità ce ne sono e come, e allora o tagliano loro oppure ci penso io, perché il grasso che cola di sprechi ce ne sono ancora tanti. Molti risparmi si possono ottenere per rastrellare 20 miliardi di tagli e poi abbassare il costo del lavoro". Raccontano tra l'altro, dice il Messaggero, che in Consiglio dei Ministri ieri il Premier è stato duro, quasi brutale, poggiando davanti a sé il librone che i conti dello Stato regalatogli dal ragioniere generale Daniele Franco, per dimostrare che lui i conti li conosce bene. "Non mi faccio prendere per il naso, so dove si annidano gli sprechi". E poi ha scandito un out-out netto, dicendo: "Vi do tempo fino a domenica", questo ai ministri, "per presentare le vostre proposte di tagli, e se saranno congrue con l'obiettivo di raggiungere 20 miliardi, bene, altrimenti procedo io e ho in mano le proposte di Cottarelli". E dunque un Renzi che vuole attaccare sul fronte tagli ai ministeri. Questo per quel che riguarda i tagli. Poi c'è tutta la questione della riforma del lavoro. Oggi il Sole 24 Ore racconta che l'ipotesi di azzerare l'IRAP sui contratti a tempo indeterminato è concreta, è un'ipotesi che vale 5 miliardi, questa è la quantificazione di Emilia Patta e Giorgio Pogliotti a pagina 7, lo sconto per le imprese può valere fino a 750 milioni se è destinato alla sola platea di lavoratori con contratti a tempo determinato che vengono stabilizzati. Allora su queste cifre ragionano i tecnici del governo dopo l'anticipazione ieri del Sole 24 Ore, stanno verificando insomma l'ipotesi di introdurre una misura selettiva per rendere meno onerose per le imprese le assunzioni con i contratti a tempo indeterminato, sgravando appunto, o meglio azzerando l'IRAP per questa tipologia di contratti. Mentre questa dimostrazione che la riforma del lavoro è ora l'obiettivo primario forse per il governo, mentre il Sole 24 Ore racconta dell'azzeramento dell'IRAP sui contratti a tempo indeterminato, Repubblica racconta quella che è la tentazione di Renzi sull'articolo 18. Roberto Mania lo scrive a pagina 8: "La grande tentazione si chiama indennizzo, superare cioè definitivamente la possibilità prevista dall'articolo 18 di reintegrare i lavoratori ingiustamente licenziati e affidare la soluzione della controversia a un risarcimento monetario". È un orientamento che Renzi, come scrive Repubblica, aveva espresso proprio nell'intervista al Sole 24 Ore la scorsa settimana, e il problema, scrive Repubblica, è se questa strada sia politicamente praticabile. Ecco, quindi l'auspicio di Renzi c'è nero su bianco nell'intervista al Sole. Che sia una strada politicamente praticabile è tutto da verificare, questo scrive almeno Repubblica. Vabbè, queste sono le questioni economiche, finanziarie con cui avere a che fare da parte di Renzi, e cioè la BCE che dice ora la crescita, la riforma del lavoro, la sanità con le regioni in rivolta e Mauro Meazza che chiede l'aumento di stipendio. Quindi sono tutte cose che bisogna affrontare una per una. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Sì, beh, ma chiaramente io sto su quelle cifre lì, insomma. Quanto bisognerebbe, quanto potrebbe tagliare la sanità? 40 milioni. Ecco, più o meno. Ma vabbè, possiamo parlarne, vediamo, come base di partenza, diciamo. Io dico sempre a tutti gli italiani, ricordatevi quando vi svegliate che Mexès, giocatore del Milan, guadagna 4 milioni di euro l'anno. Questo per allietarvi la giornata. Mauro. È beato lui, cosa vogliamo dire? Senti, a che settimana siamo per l'abolizione delle province? 71esimo. Diciamo. Allora aggiungine una dozzina o poco più, sì. Perché oggi leggevo sul Sole 24 Ore, ieri è stato raggiunto l'accordo Stato Regione Autonomia sull'attuazione per la redistribuzione delle funzioni dipendenti e delle funzioni. Che sciogli lingua questa ora della mattina. Lo spiega Gianni Trovati, insomma, che succede? Hanno definito che cosa passa a chi, visto che le province verranno abolite. Perché dico aggiungere una dozzina? Perché sì, cioè dobbiamo farle ridiventare enti di area vasta, e poi ci sono naturalmente le città metropolitane. Ma adesso non è che ti posso riassumere tutto il lavoro del collega, però ti posso dire che entro l'anno, quindi siamo a 71, insomma, magari verso la 75esima settimana ce la facciamo, dai. Sarebbe auspicabile che almeno svoltiamo. Hai già letto How to Spend It? How to Spend It? I tuoi 2 euro? No. Non mi è ancora arrivato, esce oggi con Sole 24 Ore, cioè in edicola, non mi è arrivato e quindi già la prima protesta formale. Non ti è arrivato perché sanno che c'hai 2 euro da spendere, adesso abbi pazienza Alessandro, però può essere. E mettine almeno 4. Non sono uno su cui investire. Chiedi un aumento anche tu, una ventina di milioncini. Va bene. Anche perché se ti danno qualcosa in più, se sfogli tra le pagine di finanza, trovi anche che Twitter, a cui tu sei molto affezionato, sei un grande protagonista di Twitter, bene, sta per lanciare un mini bond, anche lì insomma cercano finanziamenti, quindi sono pronti a questo lancio di bond, e potrebbe essere interessante per te mettere qualcosa del suontuoso aumento che ti verrà corrisposto sicuramente grazie anche ai miei buoni uffici dall'azienda. Che cosa ti volevo dire? Ieri abbiamo parlato di quella cosa, quella sigla lì imbarazzante, insomma la certificazione unica, che è il nuovo CUD. No, però adesso guarda, vedendo su norme e tributi di oggi parlano di CUD autonomi, quindi casomai CUDA possiamo dire, che mi sembra meno imbarazzante. Ci salva, parlando noi a queste ore del mattino, sinceramente quella sigla lì sarebbe stata un pochino imbarazzante, però ci sono, come dire, ulteriori anticipazioni e analisi di questa bozza di modello che, ripeto, è molto importante perché poi è quella che deve portare alla famosa dichiarazione precompilata, cioè il fisco che ti manda già a casa la tua dichiarazione dei redditi. No, se c'è l'aumento di stipendio, la mia potrebbe diventare un po' complessa, altrimenti, ohimè, resterà molto molto semplice. Vabbè, che altro voglio dirti? Guarda che Radio Fisco, per Radio Fisco c'è sempre sul sito del Sole 24 Ore, sezione Store 24, trovate l'ebook sui nuovi principi contabili. Mi raccomando, questo tu sai che è importante, anche se non so spiegarti poi tutti i motivi. E poi direi una parola sola, una frase, un rigo appena, io una parola sola. Traffico! Alessandro Milan, le mani sul volante dell'informazione. Questo è scontato. Tra l'altro le problematiche economiche vanno di pari passo per Renzi con le problematiche politiche in Emilia-Romagna, dove, sapete, c'è la questione dell'indagine che ha già fatto sfilare dalla corsa alle primarie Matteo Richetti. Invece Stefano Bonaccini, che è il segretario generale del PD, è sotto inchiesta, ma per peculato, per spese pazze quando era consigliere della regione Emilia-Romagna. Ma la novità è, mentre Renzi continua a dire ai suoi "i candidati non li scelgono i PM", la novità è questa: andrebbe verso l'archiviazione. Come raccontano il Corriere della Sera, Francesco Alberti, Gianluca Rotondi, Emilia, Bonaccini verso l'archiviazione, e poi si lamentano dei tempi lunghi della giustizia. Inizia così l'articolo. Con un colpo d'acceleratore che farà discutere, la posizione del renziano Stefano Bonaccini, 47 anni, candidato alle primarie PD del 28 settembre in Emilia-Romagna, indagato per peculato sull'inchiesta spese pazze in regione, viaggia verso l'archiviazione da parte della Procura di Bologna. Nulla di ufficiale, ma da ieri, attorno all'esponente democratico deciso a tenere in vita la propria candidatura nonostante il clima nonostante l'iscrizione nel registro degli indagati, il clima si è fatto meno pesante e dunque c'è una possibile via d'uscita che potrebbe essere l'archiviazione. Mentre Renzi, insomma, questo titolo "I candidati non li scelgono i giudici" è anche il titolo di pagina 7 della Stampa. A proposito di queste spese pazze, racconta Libero che per quel che riguarda Richetti, invece, che si è sfilato da questa corsa, spuntano, che cosa, le due notti in albergo con la moglie, o meglio una, un doppio soggiorno in un lussuoso albergo di Riva del Garda in provincia di Trento, due pernottamenti che risalgono all'agosto 2010 e uno nell'estate del 2011. In questa seconda occasione il parlamentare non era solo ma accompagnato dalla moglie, a spese dei contribuenti romagnoli, così almeno scrive Libero. L'hotel sarebbe una struttura 5 stelle dotata di centro benessere di ultima generazione con piscina interna all'aperto. C'era quel giorno un convegno, ma ovviamente la procura vuole sapere che tipo di convegno e che rilevanza politica avesse questo convegno. Va bene, questo per quel che riguarda il PD. Mentre Forza Italia è in un momento di difficoltà soprattutto economica e finanziaria, come l'onorevole Maria Rosaria Rossi testimonia in un'intervista fatta a Repubblica, intervistata da Tommaso Ciriaco, dice: è un momento difficile, siamo messi malissimo, non c'è una lira, un euro più che altro. Ieri un suo collega mi ha offerto scherzosamente 5 euro, dice l'onorevole Rossi a Repubblica, e io gli ho mandato l'IBAN. Comunque sono arrabbiata, dobbiamo renderci tutti conto che il presidente ci ha dato tanto e per noi adesso è il momento di dare. Cioè l'onorevole Rossi sta chiedendo i soldi ai parlamentari di Forza Italia che sono morosi, non pagano la quota al partito. Tanto che è molto amata in questo ruolo di esattore di Forza Italia, che circola la battuta all'interno di Forza Italia dicendo: mamma mia, è peggio di Cottarelli, perché sarebbe arrivata la minaccia: chi non paga la quota perde il seggio. Insomma, la stessa Maria Rosaria Rossi si rende conto del suo ruolo scomodo, che commenta appunto in questa intervista a Repubblica: lo so, prima o poi i colleghi mi accoltelleranno. Evviva, insomma, circola davvero amore e serenità all'interno di Forza Italia su questo tema, evidentemente. Che dire, cari ascoltatori, poi della questione dell'Orsa? Che dire? Noi ne parleremo alle 9, ricordo che alle 9.05 avremo ospite, tra gli altri, il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, per l'uccisione di Daniza, che è stata identificata. Doveva essere presa, catturata, è stata anestetizzata, ma l'anestetico ha avuto un effetto letale. Non c'è giornale che non metta in prima pagina la vicenda, commenti di autorevoli giornalisti, di editorialisti, l'accusa al presidente della regione ora e della provincia, ora si dimetta. Vittorio Feltri che ce l'ha con quel fungaiolo da cui è partito tutto, spero che i funghi che ha raccolto siano velenosi, scrive sul giornale. Il fungaiolo fa un'intervista alla Stampa, intervistato da Alberto Simoni. Questo fungaiolo dice: vi prego, non ce la faccio più, è un mese che ricevo insulti, minacce, non volevo l'abbattimento dell'orsa Daniza, non ho più niente da dire, la verità è che non ce la faccio più. È il fungaiolo aggredito a Ferragosto e che ha raccontato la sua disavventura e da cui è partito tutto, cioè l'ordine di catturare Daniza. Gli animalisti arrabbiati, i verdi che fanno un sit-in dicendo la vicenda è vergognosa, il Secolo XIX che parla di orsicidio. Insomma, parleremo di questo dalle 9 alle 9.30, forse, io continuo a dirlo, c'è anche un'esagerazione nella reazione della Stampa, ma ne discuteremo appunto più avanti. Voglio segnalarvi anche come cronaca la storia di un poliziotto che ieri tra l'altro ha parlato anche in video a Virus, il programma di Nicola Porro su Rai 2. Altro che rischio TBC escluso, io poliziotto sono stato contagiato. Un agente schierato in prima linea nell'operazione Mare Nostrum racconta, smentendo il Viminale: sono stato contagiato con la TBC, Ora sono costretto a continue cure. Intervistato da Massimo Malpica, le terapie dureranno 6 mesi, ma l'infezione resta per sempre. È il poliziotto che collabora all'operazione Mare Nostrum, che sotto anonimato ieri anche in video ha parlato dicendo sono stato contagiato, nonostante dicano che non è così. Mentre a proposito di sicurezza, Libero mette in prima pagina un articolo dedicato alla legge che vieta la prigione per gli spacciatori. È lo svuota carceri che rende impossibile arrestare chi commette reati per i quali è prevista una pena inferiore ai 3 anni, e per questo Maurizio Belpietro racconta la storia di uno scippo avvenuto a Milano con una signora di 68 anni seguita fin dentro l'androne di un palazzo, scippata della collanina con tanto di ferite anche al collo, e questa purtroppo è una delle vicende che si potrebbe derubricare a microcriminalità o criminalità che accade. Ma la notizia è che, portato davanti al tribunale, il giudice ha lasciato libera questa persona, non perché, come scrive Belpietro, il giudice abbia sbagliato, ma colpa della legge da applicare, e colpa della legge, cioè lo svuota carceri che rende impossibile arrestare chi commette reati per i quali è prevista una pena inferiore ai 3 anni. Per cui o si aumenta la pena per lo scippo, oppure il giudice deve lasciare andare amabilmente e tranquillamente chi fa uno scippo. Ora, secondo voi, questo aumenta e incentiva le persone a scippare, sì o no? Faccio questa domanda da $1 milione di risposta. Va bene, chiudiamo con la carta costa, l'articolo più inutile scovato ora sui giornali, oggi sui giornali. Vince nettamente Paolo Massobrio, che dedica un'intera pagina sulla Stampa a questo dilemma incredibile: perché nei ristoranti non c'è più l'aceto di vino, ma solo quello balsamico? Porca puttana. Avanti, amici miei, ridete dei vostri problemi. 24 mattino. Siamo qui alle 8:18, ben ritrovati cari ascoltatori da Alessandro Milan. Faccio subito una premessa: io vivo a Milano e trovo che Milano sia una città mediamente sporca. Sporca come sporche sono le città italiane, a detta di quello che mi raccontate voi, cari ascoltatori, mandandomi foto, scrivendomi quando parlo di questo tema. Quindi sporca nella media, purtroppo, nella media del degrado delle città italiane. Sporca perché bisogna fare lo slalom tra gli escrementi dei cani. Qui ci vorrebbe una bella mazzata in testa per legge ai padroni dei cani, una bella mazzata, io la metterei. Oppure sporca perché non è raro trovare cocci di bottiglie, carte, cartacce, vestiti, schifezze, insomma. Sporca dunque perché, non dico presi singolarmente, non offendetevi presi singolarmente, ma come comunità facciamo abbastanza schifo, siamo incivili, siamo maleducati, non abbiamo cura del nostro spazio pubblico, perché essendo pubblico è di tutti e non di nessuno, e quindi di nessuno, e quindi ce ne frega. Dunque, fatta questa premessa, io quando incrocio e quando c'è un sindaco che ha come principio quello di voler ripristinare un certo decoro, dico: beh, incontra il mio favore. Certo, però, che forse, e questo è il dibattito che vogliamo fare oggi, forse in alcuni casi si rischia anche di esagerare, eh? Almeno questa è l'accusa che viene fatta al sindaco di Padova, Massimo Bitonci della Lega. Buongiorno sindaco, eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il nuovo regolamento di polizia urbana che andrà in discussione in consiglio comunale, leggo dei divieti, vietato affiggere papiri di laurea e tronchi agli alberi, vietato sdraiarsi per terra, vietato mostrarsi in pubblico in abiti che offendono il comune senso del pudore, vietato bagnarsi o nuotare fuori dai luoghi destinati. Sindaco, lei forse è un po' esagerato o no? Guardi, perché come noto io ho già fatto il sindaco per molti anni anche su un'altra città e avevo applicato dei regolamenti di polizia municipale molto simili a questo, da cui ho tratto anche questo. Molte di queste cose inserite all'interno di questo regolamento erano già presenti nel precedente regolamento di polizia municipale. È logico che fa più notizia quando tu metti un divieto alle deiezioni animali con una multa di €50 che magari, leggendo bene il regolamento, tutta quella parte relativa all'accattonaggio molesto oppure al divieto di somministrare alcolici ai minori di 18 anni, che secondo me è una delle cose più importanti che c'è all'interno di questo regolamento che introduce tutta una serie di norme che va contro il degrado della città. Sì. Dopo, la questione dei papiri di laurea, guardi, era già esattamente presente nel regolamento precedente. È noto che Padova è una città universitaria, chiaro, ci sono appunto quasi 65-70 mila studenti, quindi chi ci ascolta capisce quanto può essere importante. Vuole vietare un po' di divertimento. Delle zone, no, ci sono delle zone che sono prospicienti all'università, che sono appositamente destinate per la fissione dei papiri di laurea e per, diciamo, quelle feste che si fanno quando uno si laurea. È ingiusto che vengano attaccati papiri in tutta la città. Si può anche, quindi, lanciare uova, farina. Bisogna anche leggerlo in questo senso, il regolamento. Ma è chiaro, guardi, io però l'hanno accusata di volere un po', come dire, di essere un censore della goliardia, di essere un censore del, insomma, di avere un po' esagerato, ecco. Ma guardi, come è noto, noi poi ci conosciamo, insomma, io non banalizzo mai i problemi e penso di essere stato forse il primo sindaco che ha introdotto un'ordinanza sulla sicurezza pubblica nel 2007, che ha fatto scalpore, quella sul limite di reddito per la residenza, sul controllo del sovraffollamento degli alloggi, che mi è costata anche un avviso di garanzia per questo, no? Mm-hmm. A Cittadella, sì, come? Perché è ben noto, insomma, che ha portato poi anche a quel decreto molto importante, che è stato il decreto Maroni, che ha portato i sindaci ad emettere delle ordinanze nel campo del degrado e della sicurezza pubblica, molto positivo, perché molti sindaci in Italia applicano poi queste norme sul degrado. Purtroppo il tema delle ordinanze si è un po' spento, perché la Cassazione ha cassato una parte importante di questo decreto, quindi non è più possibile fare ordinanze di questo tipo, ma solamente contingibili e urgenti. Però mi faccio tutta la materia è passata sui regolamenti, nel senso che allora a questo punto i sindaci, come sottoscritto e come anche altri di centrosinistra, modificano i regolamenti di polizia municipale per poter introdurre queste cose, gli strumenti che contrastano il degrado. Però mi spieghi, perché, sindaco Bitonci, che degrado c'è nel, non so, per esempio è vietato sdraiarsi per terra, sedersi o sdraiarsi per terra, ce l'ha con chi chiede l'elemosina, infatti è anche vietato chiedere l'elemosina, certo. Non le sembra una, voglio dire, qua si va proprio a intaccare anche la ci sono delle persone, anche alcune sono sfruttate, il racket, e questo senza dubbio va stroncato, il racket, ci sono persone che chiedono l'elemosina perché ne hanno bisogno. Ma guardi, questa è una delle polemiche maggiori di queste ultime due settimane, perché da quando ho introdotto questo divieto, ovviamente gli attacchi sono stati purtroppo anche dal mondo cattolico. Il divieto non è il divieto di fare la carità cristiana, ci mancherebbe, ma è il divieto di tutte quelle situazioni che ci sono nelle città. Lei vive a Milano, sicuramente molto anche a Milano, sì, di tutte queste persone che vivono attorno al racket, perché questo è un vero e proprio racket dell'elemosina. Ma per quello c'è la quelli polizia, si buttano per terra, si mostrano delle parti del corpo, spintonano le gente col bicchierino. Cioè, lei sa che questo è un fenomeno che c'è in tutte le città. A Padova poi era diventato veramente insopportabile e sì, durante la campagna elettorale ho colto da tutta la gente questa voglia di una svolta anche nei riguardi dei Vucumpra, una situazione proprio di degrado molto evidente che c'era a Padova, e devo dire che i padovani in queste settimane mi stanno molto sostenendo. Sì. Ieri, camminando per strada non c'era persona che non mi fermava e mi diceva ha fatto bene, però, siamo con lei, eravamo stanchi e avanti così. Però insomma, vietando la richiesta dell'elemosina, no, ma certo che è importantissima e fa anche molto discutere, come puoi immaginare. Infatti lei stesso dice che il mondo cattolico, molti l'hanno criticato. Nel bilancio del comune abbiamo messo 2 milioni di euro, io sono stato eletto da qualche settimana, abbiamo approvato già il bilancio di previsione che non aveva fatto la precedente amministrazione dell'anno 2014, perché purtroppo i comuni sono messi così, ma in bilancio io ho messo 2 milioni di euro per aiutare le persone in difficoltà, quindi capisce, io dico, se uno ha bisogno chieda al comune, insomma, non chieda al comune, c'è la Caritas, c'è la messa dei poveri. Cioè, non c'è bisogno. Sì, però, sindaco, mi scusi, ci sono alcune cose. Non so, è vietato appoggiare le biciclette al palo, ai lampioni, agli alberi. Cioè, mi sembra molto. Oppure questo, scusi, è vietato mostrarsi in pubblico in abiti che offendono il senso del pubblico. Chi è che stabilisce qual è un abito? Allora, Il problema è questo, in una città dove ci sono stalli per le biciclette dappertutto, sì, va bene? Allora, se è un posto dove non c'è nessun stallo della bicicletta, lei avrebbe ragione che una bicicletta l'attacca al palo. Invece, però se siccome ci sono dappertutto stalli per le biciclette, non vedo perché devono essere attaccate magari lungo una strada, invece, allora, un posto dove magari devono passare mi spieghi le allora piedi, chi stabilirà se un abito offende il comune senso del pudore, cioè non vogliamo mica la polizia come i talebani che mandava la polizia di prevenzione del vizio per l'elogio della virtù. Io ho sempre fatto il sindaco e quando faccio le riunioni con la polizia urbana, polizia municipale, che lo ritengo uno strumento importantissimo per gestire situazioni di degrado, dico sempre: importante è il comportarsi come un buon padre di famiglia, cioè che è una cosa che insomma, quando fa un lavoro, uno fa un lavoro e ha una responsabilità di questo tipo come un poliziotto, è logico che deve ragionare con il buon senso, quindi sì, anche questo regolamento di polizia dà la possibilità di intervenire su questioni importanti relativi all'imbrattamento, al degrado, ai writer, alle cose che succedono nelle città, però deve essere applicato ovviamente con buon senso, il buon senso di una persona che ha un ruolo così importante come quello della polizia. Cioè, che ne so, uno vede una torso nudo, per esempio, non si potrà, immagino. Poi il vigile dovrà gestire un po' la situazione. Ma guardi che non si può in nessuna città, guardi che questa non è una novità nei regolamenti di polizia municipale, nelle ordinanze, girare a petto nudo se non nelle città balneari e nei posti dove, insomma, di carattere turistico, ma in tutte le città. Io glielo dico per certo, perché ovviamente nel redare questo regolamento siamo andati a vedere molti altri regolamenti, quindi questo è anche un compendio di cose che ci sono già in altri regolamenti e cose che avevo già applicato io quando ero sindaco di Cittadella e l'ho fatto per 10 anni e quindi non per qualche mese, e l'esperienza è stata molto positiva perché in effetti se un sindaco si interessa dei problemi del degrado e combatte il degrado della città anche con la propria polizia municipale, i risultati, le garantisco, ci sono, perché sono evidenti già nelle prime settimane. Ci sarà da combattere però in consiglio comunale, perché immagino che andrà approvato, non sarà, vabbè, avete la maggioranza e quindi le faccio una previsione. Verrà approvato. 20 voti favorevoli, 12 contrari. Beh, avete la maggioranza, quindi avete la maggioranza, per cui vabbè, insomma, si combatte anche così il degrado, lei dice. Sindaco, io la ringrazio. C'è una questione, quella finale sulle prostitute, cioè è vietato anche il meretricio contrattare. Sapete che la Lega vuole introdurre la legalizzazione della prostituzione, anche lei immagino è di questo parere, no? Sono il primo firmatario di una proposta di legge quando ero capogruppo al Senato fino a qualche mese fa, perché insomma io mi sono dimesso da senatore per fare il sindaco di Padova ed ero primo firmatario, sono il primo firmatario di una proposta di legge che volge alla regolamentazione prostituzione in strada, no, vietata, ma invece regolamentata sì. Il tema secondo me è fondamentale, è questo. Io spero che il governo faccia una norma chiara e precisa in modo che riusciamo a gestire la prostituzione in alcune zone della città, però non ci siano più le prostitute in strada, che sono fonte anche questa di degrado e di sfruttamento di queste ragazze. Va bene, io sindaco la ringrazio, buona giornata. Grazie ovviamente tutti, il sindaco di Padova Massimo Bitonci della Lega. Dopo la pubblicità riparteremo e parleremo di che cosa, a partire anche da questo. Sapete, a proposito di prostituzione, se volete ovviamente discutiamo di quello che ci ha detto il sindaco di Padova, come trattare il decoro nelle nostre città, e vi do il numero 800240024. E poi anche sapete che c'è l'idea da parte dell'Eurostat di inserire prostituzione, ma anche e soprattutto traffico di stupefacenti, e quindi nel secondo caso una questione illegale. La prostituzione invece non è illegale, ma è illegale il traffico di prostitute, il racket della prostituzione. Inserire tutto questo nel calcolo del PIL, così il prodotto interno lordo sale, perché si calcola anche quant'è la stima del volume di affari di traffico di stupefacenti e anche addirittura racket della prostituzione. Vi sembra una cosa sensata? 24 mattino. Bene, le cose stanno andando benissimo, il PIL è cresciuto di 3 punti, puttane contrabbando, cocaina, fate anche qualche omicidio che lo mettiamo dentro e andiamo avanti. Con le balle di questo governo supereremo il PIL della Cina e dell'India messi insieme entro quest'anno lo facciamo. Vabbè, questo è come la vede Beppe Grillo la questione, in realtà molto molto seria, la questione di inserire nel computo del PIL anche, come prevede l'Eurostat, il commercio di stupefacenti, il contrabbando, la prostituzione, cioè tutte quelle attività in alcuni casi illegali, palesemente illegali, che andrebbero appunto a far ricalcolare il PIL. Vabbè, Beppe Grillo la vede così. Siamo partiti però dalla questione Bitonci per affrontare anche questo argomento. Io intanto voglio salutare Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Buongiorno Ferrero. Salve a lei, gli ascoltatori e ascoltatrici. Saluto anche Michele Riccardi, che è un ricercatore a Transcrime e insegna all'Università Cattolica a Milano. Buongiorno professor Riccardi, perché su questo tema ci aiuterà a capire un po' di cose. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, intanto però Ferrero, ha sentito Bitonci, insomma lei è stato anche ministro, alcuni temi come la questione dell'elemosina, gli accattoni, la battaglia al degrado, immagino che le suscitino qualche riflessione, immagino anche critica. Ma guardi, a me pare che in questi giorni ci sono due notizie che stanno assieme, una è questa delle dei regolamenti di Bitonci, diciamo. E l'altra è quella che Montezemolo ha preso 27 milioni di liquidazione dalla Ferrari, e secondo me le due cose stanno insieme. E come mai stanno insieme? Per un motivo molto semplice, che negli anni in cui l'Italia è andata bene, penso agli anni 60, quelli che la gente si ricorda con simpatia, no? Gli anni di sapore di sale, sapore di mare, della speranza, delle cose, in realtà i ricchi erano un po' meno ricchi e per questo c'erano meno poveri in giro a chiedere l'elemosina. Adesso che i ricchi fanno assolutamente tutto quello che vogliono e quindi ci sono molti più poveracci in giro, che non c'è chi chiede la carità e chi non arriva nemmeno a chiederla, e c'è la colpevolizzazione del povero. O la colpevolizzazione, dice Bitonci, di quell'aggressività, cioè c'è il povero che chiede l'elemosina umilmente, c'è anche quello, lo sa anche lei, vive a Roma, tra Roma, Torino, insomma vedrà, ci sono anche delle forme un po' più aggressive magari di chiedere l'elemosina, no? Posso dirle che io un po' ho girato il mondo, nelle nostre città ci sono molte meno persone che chiedono l'elemosina che in tantissime altre città europee del mondo, ma a me pare che il punto, però adesso se vogliamo essere seri, perché non diciamo il problema nel regolamento, a me pare che c'è un meccanismo che cerca di dare delle risposte propagandistiche al malessere della gente. Cioè la gente oggi sta male, un po' è disperata, un po' è senza speranza, un po' vede appunto il futuro contro. E ordinanze di questo tipo, regolamenti di questo tipo, che cosa provano a fare? Provano a costruire dei capri espiatori, a dire io i tuoi problemi grandi non te li risolvo, ma almeno non vedi la bicicletta appiccicata là. Cioè delle cose dal mio punto di vista sciocche, ma mi pare che questa è la funzione. Dei palliativi sbagliati. Dei palliativi. Come Renzi, se vuole, su un altro versante adesso. La gente si sente impotente, non sa dove pestare la testa nel muro avanti, e Renzi ti dice ci penso io. E l'impotenza e l'attesa del miracolo dell'uomo della provvidenza si alimentano a vicenda, e così un po' per queste cose, le vede un po' così. Però insomma, da sindaco, vabbè, uno da sindaco deve cercare anche di fare delle cose se vede la propria città cadere senza decoro, no? E lei cosa farebbe da sindaco? Cioè se trova, che ne so, lo sporco, una città magari un po' degradata, stiamo parlando in generale, città in generale. Io penso che la città, e fare il sindaco avrebbe una cosa enorme di possibilità, invece che nel mostrarsi il sindaco sceriffo e quindi fare il regolamento che più che altro serve a far discutere del sindaco, cioè noi stiamo facendo un po' di propaganda al sindaco di Padova che aumenta un po' il suo patrimonio simbolico, sarà un po' più conosciuto di prima, ma non cambia niente. Secondo me il sindaco avrebbe una cosa enorme che potrebbe fare, ed è provare a ricostruire i legami comunitari. Cioè, io farei un regolamento che dice, ma non è un regolamento, è una proposta, dice: riusciamo in ogni condominio della città a fare due pranzi all'anno in strada davanti al condominio tutti assieme, in modo che la gente si ma parli. Se nei condomini Ferrero la gente si tira i pugni appena si incontra dei pianerottoli, e invece non è dappertutto così. Allora io penso che un sindaco dovrebbe lavorare a evitare che le persone anziane siano terrorizzate dal vicino, e questo sovente avviene con la ricostruzione delle relazioni tra le persone. Ma conoscersi un po' di più, conoscersi, costruire relazioni, solidarietà, autoaiuto, integrare i servizi sociali sul territorio con una capacità nei rapporti col vicinato di ricostruire le relazioni. Questo secondo me sarebbe il punto. Potrebbe essere un punto. Una città come comunità, invece, ricostruire il tessuto sociale, ognuno che odia sociale. L'altro che dice: tu hai messo la bicicletta, allora ti chiamo il vigile. Cioè, siamo alla follia. Non so se neanche un sindaco può farlo. Però io vorrei introdurre allora questo argomento, l'argomento del PIL. Professor Riccardi, insomma, ha sentito, adesso non facciamo una trattazione economica che non interessa a quest'ora, ma cerchiamo di capire da gente della strada se è sensato introdurre il calcolo di quello che può essere, che poi chissà come si fa a calcolare, ci saranno delle stime, il calcolo di quello che può essere il giro di affari, di prostituzione, commercio di stupefacenti, contrabbando, tutto che c'è, quello che c'è di illegale, per rimodulare il PIL. Lei che ne pensa? Ma è sensato, viene fatto con l'intenzione di paragonare l'economia di alcuni paesi dove queste attività sono già legalizzate con quelli dove queste attività invece sono ancora illegali. Chiaramente sto parlando solo di alcune attività come droghe leggere e prostituzione. Quindi questo è in genere il senso con cui viene giustificato. Sicuramente è rischioso. Per vari motivi, innanzitutto perché la contabilità dell'economia criminale ha una storia molto più recente di quella della contabilità nazionale legale, segue regole diverse e diciamo che non ha ancora raggiunto una metodologia condivisa che consenta di stimare questi numeri senza poi essere smentiti o in modo da essere numeri paragonabili. A questo proposito, questi numeri ci sono, cioè, perché se, quanto potrebbe essere la stima dell'Italia? No, in realtà l'Istat l'ha già introdotto e apparentemente le attività illegali prese in considerazione dall'Istat, che sono proprio secondo quanto dice l'Istat attività illegali ma che sono scambi volontari tra i soggetti, quindi prostituzione, droga e contrabbando di sigarette, sono state stimate allo 0,9% del PIL. Del PIL. E quindi insomma. Ma sì, è una stima peraltro in linea anche con i nostri lavori più recenti di Transcrime o di colleghi come. La cifra di 15,5 miliardi di euro è la cifra giusta? È giusta, è fino a prova contraria, cioè, ma ripeto, questo è una stima che, ripeto, in linea con stime abbastanza solide che sono uscite negli ultimi anni anche da parte del nostro centro Transcrime. Sicuramente negli ultimi anni sono usciti anche numeri tra virgolette mitologici, cioè enormi e senza alcun fondamento scientifico, perché comunque o perlomeno avere dei numeri grandi di economia criminale forse fa anche comodo a più gruppi di interesse. Sì, le stime che io ho letto, 15 miliardi e mezzo, 10 sono riferiti a, diciamo, il traffico degli stupefacenti, 3 miliardi e mezzo proverrebbero dalla prostituzione, 300 milioni di euro dal contrabbando di sigarette e di alcol. Al che verrebbe da pensare sempre all'uomo della strada come me, che magari sbaglia, dopo il traffico ripartiremo da questo, ma se uno le deve calcolare come economia sommersa, non so, per esempio il traffico di stupefacenti, magari le droghe cosiddette leggere, ma non è il caso di renderle, legalizzarle e quindi calcolare il mercato perché si sanno dei dati certi? Allora, non so perché un ascoltatore mi scrive Ferrero in una parola utopia comunista. Non credo, Ferrero, che sia comunista o non comunista il volere che le persone socializzino, ma al di là di questo. Che ne pensa, insomma, di questa vicenda? Lei è per la legalizzazione, dice, tanto vale invece che calcolare quanto è la stima del traffico di stupefacenti e metterla nel PIL. No, io sono d'accordo con lei sulla legalizzazione, non tanto perché sia dentro il PIL o fuori del PIL, ma perché questa è un'altra delle sciocchezze simili ai regolamenti di cui abbiamo parlato prima, cioè questa cosa del proibire, quindi di rischiare qualcuno finito in galera e avanti sulle droghe leggere e tutto il resto, ha prodotto semplicemente disagi, problemi. Sono decine di milioni le persone che si sono fumate uno spinello, che non mi risulta, cioè, non certo fa meno danni dell'alcol, o comunque diciamo sta in un ambito similare. Quindi io sono d'accordo con lei sulla questione della legalità. E quindi anche della prostituzione, come vuole la Lega, o lì no? Allora, sulla prostituzione c'è sempre il nodo dello sfruttamento. Quello, infatti, quello nessuno lo vuole, cioè quello, lo sfruttamento è contrastato, è penalmente allora rilevante. Allora, da questo punto di vista, la legge attuale, la legge Merlini, non è che impedisce a una persona di fare quello che vuole, diciamo, del suo corpo, cerca di incidere sul meccanismo dello sfruttamento, e io penso che lì attorno bisogna muoversi, questo mi pare, diciamo, come criterio, cioè di evitare che ci possa essere il meccanismo dello sfruttamento, che, non prendiamoci in giro, rischia di essere il meccanismo assolutamente diffuso, non per magari una persona, ma diciamo, pensiamo sugli immigrati. Sì, rimarrebbe, dice, anche con la regolamentazione rimarrebbe. Fatemi sentire gli ascoltatori. Antonio dalla provincia di Padova. Antonio, buongiorno. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Dica. No, ma in merito all'inserimento nel PIL delle attività, diciamo, di malavita, sì, visto che il PIL misura la quantità, diciamo, di denaro che si produce in una nazione, mi pare assolutamente logico. Quello che risulta strano da tanto tempo è che si utilizzi il PIL come elemento che vada a verificare se una nazione sta bene o sta male. Sì, ma non è più così, è un dibattito, sai che c'è il BIL, adesso ci sono altri indici che stabiliscono il benessere. L'indice che appaiono sui media, l'indice che appaia sul media di fatto è solo il PIL. È quello che è più, diciamo. Anche la produzione, diciamo, di denaro legale, ma con attività che inquinano, aumenta il PIL, ma andrebbero comunque. Quindi lei dice, però, dal punto di vista della logica, visto che misura il denaro che si produce all'interno della nazione, è anche denaro quello che si produce attraverso il traffico, che ne so, di stupefacenti. Quindi dovremmo cambiare indicatore. Del benessere di una nazione non può essere quello. Infatti, ripeto, dal PIL già si utilizza questo BIL, cioè il benessere interno lordo, che tiene conto di altri fattori. Lei, Ferrero, che ne pensa di quello che dice l'ascoltatore? Il problema, cioè, le dà fastidio che nel PIL entrino questo tipo di calcoli? Le dà fastidio prendere il PIL come giudizio del benessere di uno Stato? Allora, sulla prima questione, io penso che i paesi che hanno chiesto di inserire questo nei codici statistici l'hanno fatto anche per avere più margini, cioè il fatto che aumenti un po' il PIL italiano permette qualche margine di spesa in più. Sul merito, io penso che il problema vero è quello che pone l'ascoltatore, e sono totalmente d'accordo, cioè la misurazione del PIL misura cose buone e cose cattive, che ne so, se uno fa prevenzione sui ragazzini, sui denti avanti, si riescono a sconfiggere le carie prima che arrivano avanti, questo non aumenta il PIL. E se uno manda tutti dal dentista perché a 30 anni c'hanno tutti i denti guasti, questo aumenta il PIL. E quindi io penso che il PIL sia un misuratore demente, diciamo, non misura il benessere, né è auspicabile, e qui c'è un punto politico, ecco. Io non penso che sia auspicabile che il PIL aumenti di smisura. Il problema non è di aumentare, il problema è di distribuire i soldi, il lavoro, il potere, il benessere e avanti in modi civili. Oggi il problema non è che siamo troppo bassi come PIL, il problema è che la ricchezza è distribuita così male che c'è gente che non sa cosa farsene dei soldi, tanta gente che non arriva alla fine del mese. Quindi a me sembra che il nodo è questo. La redistribuzione, la redistribuzione più equa, sì, però Ferrero, non arriviamo sempre alla solita imposizione, la redistribuzione stile comunista, cioè tutti, tutti devono guadagnare, guardi, la stessa cosa, tutti guardi. No, guardi, io non è che penso che tu. Cioè, il mercato dovrebbe redistribuire. Il mercato dovrebbe redistribuire più equamente, no, però. No, il mercato non redistribuisce assolutamente. Il mercato dimostra che polarizza ricchissimi, poverissimi. Questo fa il mercato. Quindi ci vuole, ma l'hanno scoperto già il secolo scorso, che ci vuole un'entità che si chiama Stato che intervenga. Io penso che però, adesso se la vogliamo mettere così, io penso questo, che oggi noi siamo arrivati in una situazione in cui la ricchezza potenziale è altissima, perché la produttività del lavoro è molto alta, la tecnologia, la scienza, cioè l'umanità non è mai stata nelle condizioni di essere così ricca. Il punto è veramente di come si riesce a usare questa ricchezza potenziale in modi non distruttivi, perché oggi si sta distruggendo l'ambiente, si ricominciano le guerre, appunto ricchi troppo ricchi, poveri troppo poveri, Bitonci ti impedisce l'accattonaggio e Montezemolo 27 milioni e avanti così, questo è il mondo di oggi. E invece io penso che questa ricchezza, il punto sarebbe come riusciamo a usarla per vivere meglio tutti, un numero un po' più diffuso di persone. No, ma è interessante questo che lei pone come problematica. Fatemi sentire, poi torno al professor Riccardi. Claudio dalla provincia di Taranto ci chiama. Claudio, buongiorno. È caduta la linea. Allora, professor Riccardi, lei che ne pensa su questa questione della redistribuzione della ricchezza? Non è proprio il tema di cui lei si occupa, ma insomma è interessante quello che ci diceva anche l'ascoltatore, a dire non è il problema, è l'indice di misurazione, cioè il PIL forse è datato come indice di misurazione del benessere di una nazione. Ma sì, per quanto non sia completamente d'accordo con quanto è stato detto, cioè l'economia criminale, se pensiamo poi anche la pensiamo in termini di riciclaggio di denaro, infiltrazioni criminali eccetera, forse più che aumentare il reddito lo diminuisce, cioè il reddito dell'economia legale, i proventi che derivano dal traffico di droghe o dalla prostituzione vengono riciclati e sappiamo anche come, cioè c'è distorsione di mercato a svantaggio di aziende assolutamente legali, e quindi, come dire, non so quanto questo aumenti il PIL o forse in realtà e al contrario lo diminuisca, e quindi come provocazione per certi versi, più che sommare l'economia criminale al PIL, forse andrebbe detratta, tra virgolette. Quindi non sono così sicuro. Sicuramente l'introduzione o perlomeno la stima dell'economia criminale ha due vantaggi, cioè il primo che consente di capire quanto può essere il riciclaggio in una nazione, quindi dove bisogna intervenire, in quali mercati, in quali paesi, dove contrastare la criminalità, e dall'altro lato è utile, come è già stato detto, se qualora si volesse fare una liberalizzazione di queste attività, allora serve per stimare la domanda in vista di una possibile crescita del gettito fiscale. Sì, allora, esatto, in questo caso sarebbe un modo per fare dei conti un po' più precisi. No, gli ascoltatori, il club della provincia di Taranto non si è riusciti a recuperarlo. Ferrero, noi dopo le 9 parleremo anche del caso, così concludiamo, del caso dell'Orsa. Non mi dica che anche lei si è lanciato come tutti i politici a parlare come se fosse il tema principale del giorno questo dell'Orsa. Lei ha fatto qualche dichiarazione, non l'ho seguito, se su Twitter si è lanciato, Facebook, no. Anche no, lei ha da dire qualcosa sull'Orsa, Danizza? No, non ho fatto dichiarazioni. Io penso che ci sia stato un intervento maldestro, il fatto di arrivare che quest'Orsa qui è morta. Ma questo senza dubbio. E quindi, come dire, non ho fatto dichiarazioni, anche perché non penso che uno che fa politica deve fare dichiarazioni su tutto. Certo, non è il modo, secondo me c'è un modo un po' sgangherato di affrontare il tema di come la ripopolazione sugli orsi, ma penso sui lupi avanti, viene gestito, perché questo è un paese che viaggia per... come dire, per entusiasmi, per emergenze, quindi No, no, dica, secondo me bisognerebbe invece costruire una coscienza, una programmazione un po' di più, ma questo è chiaro. Funzionare. No, ma, cioè, ma questo sicuramente, anche perché se ne parla due giorni e poi basta. Ringrazio Paolo Ferrero e Michele Riccardi. Come detto, dopo il giornale radio delle 9 parleremo di questa vicenda dell'orso d'Anizza, di cui parlano tutti i giornali, che sicuramente interessa anche molti italiani, solo per due giorni magari, ma così è. 24 mattino. Siamo qui, allora, ben ritrovati da Alessandro Milan insieme fino alle 9.30. Insomma, non c'è giornale che oggi non tratti la vicenda e non racconti in prima pagina la vicenda dell'orso d'Anizza. L'orso, o meglio l'orsa, morta ieri dopo l'intervento del corpo forestale della provincia di Trento. Volevano catturarla dopo che d'Anizza aveva in agosto aveva aggredito un cercatore di funghi, no? La vicenda la ricordate? Perché è una vicenda che ha spaccato l'Italia, con dichiarazioni di politici che anche ieri si sono succedute ogni minuto e hanno letteralmente invaso Twitter, i social network. Uno dei membri della spedizione del corpo forestale dichiara al Corriere della Sera: oggi l'ho vista morire davanti a me, una tristezza infinita. E soprattutto aggiunge: però per carità, dice al giornalista del Corriere, per carità, non scriva il mio cognome, perché sa, ci sono anche delle persone esaltate. Sì, perché il caso dell'orso d'Anizza forse è anche da trattare dal punto di vista di come i mezzi di informazione hanno affrontato e affrontano questa vicenda. Chiedo umilmente, forse si sta travalicando il senso della misura, lo chiedo anche a voi cari ascoltatori. Oggi Vittorio Feltri in prima pagina del giornale arriva a scrivere che si augura che i funghi raccolti da quel cercatore di funghi siano velenosi e mortali. E quel cercatore di funghi deve fare una intervista sulla stampa a dire: vi prego, non ne posso più, io non volevo abbatterla, ma mi stanno insultando in tutti i modi da un mese per questa vicenda. Voglio salutare intanto il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, grazie per essere con noi. Presidente, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Allora, intanto, come risponde lei all'accusa di orsicidio, animalicidio e alle accuse anche e alle richieste di dimissioni che le sono piovute sul capo da varie persone? Ma intanto vorrei aggiungere che qualcuno ci dà anche degli assassini, quindi il contesto in cui ci troviamo a lavorare purtroppo ormai è questo. Io dico solamente una cosa, che tutto questo va inquadrato in un contesto e lo descrivo brevemente. Il contesto è che nelle Alpi l'orso vive solo in Trentino. Da nessun'altra parte delle Alpi c'è l'orso e vive in Trentino perché? Perché il Trentino ha accettato di portare avanti 16 anni fa un progetto europeo che ha visto il trasporto di una decina di orsi qui dalla Slovenia e poi tutta una gestione che ha portato oggi ad avere 50 esemplari sul nostro territorio. Quindi questo dimostra da sé come noi teniamo alla nostra fauna e come in questi anni abbiamo investito risorse e energie perché questa fauna si moltiplicasse. E che male faceva questo orso in particolare, questa orsa d'Anizza? Gliela spiego brevemente: su una popolazione di 50 esemplari è normale statisticamente che ce ne siano 3 o 4 che, diciamo così, hanno un carattere un po' particolare, diverso dagli altri, ma non è stato solo il fatto del gaiolo. L'orsa d'Anizza ha avuto diversi episodi in cui si è avvicinata alle case, ha predato animali. Vorrei ricordare che anche gli animali che sono morti sono mamme mucche, mamme capre, mamme pecore, con i bellini, con i capretti e con gli agnellini. Ho capito, Presidente, ma è la natura. È la natura, certamente è la natura, però il progetto prevede proprio che, siccome gli orsi sono inseriti nella natura, ma in una montagna che è abitata, ci sia la possibilità di poter prelevarli e fare delle catture che sono finalizzate appunto alla conservazione del progetto, perché il progetto ha bisogno anche di essere accettato dalla popolazione. E allora locale. Cosa è andato storto, Presidente, in questa vicenda? È andata storta semplicemente una cosa, che l'anestesia probabilmente ha fatto un effetto che in letteratura a volte si verifica anche per gli umani, vorrei ricordare, e quindi siamo incappati in uno di quei casi statistici che a volte si verifica. Non è stata, perché guardi che l'accusa è anche questa, non è stata voluta guardi, viviamo in un paese dove no, si tende sempre a pensare che le cose siano nascoste sotto il tappeto. Io le dico solo una cosa: appena sono avvenuti i fatti, io ho chiamato il procuratore della Repubblica, che è l'autorità che deve naturalmente garantire che ci siano tutte le cose a posto. Ho messo a disposizione subito tutti gli atti e tutte le persone e tutto il corpo forestale della nostra provincia perché si possa avere la massima trasparenza. Il procuratore ha avviato subito, su nostra richiesta, tutte le attività. È stata fatta un'autopsia ieri all'orso, un esame autoptico che è seguito dalla procura. E quindi noi siamo lì in totale trasparenza, perché noi abbiamo sempre gestito le cose così. Allora, Presidente, poi torneremo magari sulla questione delle dimissioni, la questione anche delle polemiche mediatiche. Le voglio presentare però una giornalista, una conduttrice televisiva che ha dedicato gran parte della sua vita a queste tematiche. Si tratta di Licia Colò. Buongiorno, buongiorno Licia, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, che pensi di dire al presidente Rossi, che è qui, presidente della provincia di Trento, che dice abbiamo gestito tutto secondo le regole, di certo non possiamo essere accusati, addirittura ci danno degli assassini. Allora io dico soltanto che 3 giorni fa Claudio Groffo, il responsabile del progetto Grandi Carnivori del Servizio della Fauna e Foreste della provincia di Trento, quindi non lo sto dicendo io, su Repubblica ha dichiarato che i proiettili narcotizzanti possono essere pericolosi, erano potenzialmente pericolosi. Quindi comunque io non dico che loro volessero uccidere l'animale, per l'amor del cielo, non dico questo, ma è stata presa una decisione assolutamente ad alto rischio e l'ha detto un rappresentante di coloro che poi hanno preso questa decisione. Quindi già questo secondo me mi sembra un grosso errore. Ma credo che ci sia stata anche una polemica tra il Corpo Forestale Centrale di Roma, appunto, e il Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, cioè una polemica su se fare o no questo tipo di operazione, che poi si è rivelata letale per loro. Ma poi stiamo parlando di un animale ad alto rischio, perché Danica o Danizza, che come la si voglia chiamare, è stata catturata già 3 volte, 3 volte narcotizzata. Pensiamo che gli animali non sono delle pedine di una scacchiera, non sono degli oggetti. Lei è stata narcotizzata la prima volta quando è stata portata dalla Slovenia e poi altre 2 volte per problemi di radiocollare. Negli ultimi anni sono morti 3 orsi per catture di questo genere, il penultimo JJ5 nel 2012. Quindi è stata presa una decisione secondo me sbagliata, ma non lo dico da esperta biologa o veterinaria, ma perché guardo i risultati. Non soltanto sbagliata come tipo di cattura, ma poi anche moralmente sbagliata, perché io ho sentito il presidente Rossi che dice anche gli agnelli, anche le capre sì, sono degli animali, è ovvio, ma chi è che ha reintrodotto dei carnivori? Non abbiamo reintrodotto degli erbivori prendendo dei finanziamenti europei di 12 milioni di euro. Quindi avendo quando reintrodotto... si reintroduce un carnivoro, si presume che ogni tanto un carnivoro possa anche mangiare aggredire degli altri animali, cioè fa parte della natura di questi animali. Io però vorrei introdurre qui anche con il presidente Rossi la questione di come la stampa, come i mezzi di informazione, come l'opinione pubblica soprattutto ha reagito. Presidente, io non lo so se lei ha mai pensato nella vita di politico di poter arrivare a vedersi chiedere le dimissioni, non per una faccenda politica, non per una mala gestione della provincia di Trento, non per una questione di equilibri, ma per la vicenda dell'uccisione di un orso. Non l'avrà mai pensato, e però che replica a chi chiede a gran voce le sue dimissioni? Ma guardi, io credo che ci siano delle scale di valori, evidentemente, no? E dovremmo anche cercare tutti di comunque stare dentro queste scale di valori. Ho detto ieri in conferenza stampa che evidentemente se gli organi preposti, in questo caso la Procura della Repubblica, evidentemente, e poi un tribunale, dovesse individuare delle responsabilità, io sono pronto ad assumermele in prima persona, evidentemente, ma difendendo l'operato di tutti coloro che, al di là di quello che dice la signora Licia Colò, in questi anni hanno lavorato, e lei lo sa bene, unici in Italia e unici in Europa, per sviluppare la popolazione dell'orso, per aumentarla, in un progetto che è di grande rigore scientifico, e vorrei tranquillizzare la signora Alicia Colò dicendo che le decisioni che sono state prese sono supportate da autorevoli pareri dei maggiori esperti in tema di gestione dell'orso in Europa, e che i finanziamenti europei in Trentino siamo abituati a spenderli per gli obiettivi che, per i quali sono concessi, a differenza di quanto avviene invece da altre parti. Ho capito, vorrei anche ricordare un'altra cosa alla signora Alicia Colò, che anche con l'altro metodo di cattura, che è quello della trappola tubo, in ogni caso si deve somministrare un anestetico all'orso, e l'anestetico viene somministrato a un orso che, proprio perché è dentro in una trappola, è in una condizione addirittura di maggiore stress rispetto a quella che aveva nel momento in cui è arrivato. Però Presidente, mi faccia capire, quindi, cioè, quindi credo che prima di parlare bisognerebbe informarsi e poi naturalmente trarre le conclusioni. Vabbè, però le chiedo io, alle richieste di dimissioni adesso lei dice di no, però mi pare di capire, se ci fosse un accertamento da parte della procura e una qualche tipo di responsabilità, sarebbe pronto anche a dire, beh, a quel punto mi dimetto? Ci mancherebbe altro, è ben evidente, noi siamo abituati in questo senso, se c'è un profilo di carattere penale nell'assolvimento delle proprie funzioni, noi siamo abituati in questo senso. Ma che tipo di accuse le potrebbero muovere? Non lo so, che tipo di reato penale si potrebbe prevedere? Maltrattamento potrebbe essere o qualcosa d'altro. Sì. A differenza invece di tutti coloro che ho sentito parlare in questi giorni, non ultimo il signor sindaco di Cortina, che dagli arresti domiciliari ha scritto su Facebook, venite in vacanza nelle Dolomiti bellunesi, perché noi non uccidiamo le mamme orse. Questo per Alicia Colò, vuole replicare? Allora sì, no, assolutamente sì. Allora, io sono assolutamente informata e sono abituata a giudicare i risultati. Se i massimi esperti europei hanno portato a questi risultati, allora cambiassero mestiere, perché non si fanno cose del genere vista l'alta percentuale di morte di animali. Dopodiché, un progetto di grande successo di reintroduzione che non trova l'adesione degli abitanti è un altro processo fallimentare. Ripeto, gli orsi non sono degli oggetti. Terzo, gli orsi non possono essere gestiti in questo modo, sono degli animali. Una madre con dei piccoli ovviamente è un esemplare ad alto rischio. Detto questo, che cosa succederà adesso ai piccoli? I suoi importantissimi e preparatissimi esperti lo sanno che animali cuccioli di orso, voi avete tolto di mezzo un'orsa potenzialmente pericolosa, avete creato probabilmente due orsi potenzialmente pericolosi, che qualora sopravvivessero i cuccioli, perché i cuccioli hanno bisogno di stare con la madre per i primi 3 anni, sentir dire che molto probabilmente ce la faranno è una cosa vergognosa. Quindi se si fa un progetto si affrontano le problematiche, si analizzano, e poi non è che uno dice ho sbagliato siccome sono potenzialmente pericolosi. Insomma, su questa vicenda, come vedete, ci si divide ancora molto. Io purtroppo ho solo un minuto che posso dedicare al sindaco di Pinzolo, che ringrazio e saluto, William Bonomi. Sindaco, è vero che quel cercatore di funghi, buongiorno intanto, dice lasciatemi vivere perché sono insultato da un mese? Buongiorno a tutti. Sì, è vero, diciamo che la nostra comunità tutta è stata sottoposta così a un bombardamento mediatico, secondo me ingiusto, totalmente ingiusto, perché il Trentino e Pinzolo, come diceva bene il Presidente della provincia, è una località seria dove le cose le facciamo con serietà. Noi facciamo dell'ambiente la nostra bandiera, il nostro vanto e anche il nostro stile di vita, perché noi viviamo la montagna come una volta nel pieno delle nostre tradizioni. Siamo anche una località turistica e abbiamo cercato con sforzo di convivere con l'orso, e ce la stiamo facendo. I numeri sono chiari, li ha detti prima Ugo Rossi, abbiamo 50 orsi che vivono qui. E 50 orsi che non creano problemi. Se poi, come nel caso di Danisa, un'orsa si muove fuori, diciamo così, entra in paese, entra vicino alle case. Ma lei come definirebbe quello che è successo? Una tragedia? È evidente che nel pieno rispetto della legge e dei protocolli l'orsa va prelevata. Bisognava intervenire. Fortuna vuole che è successo quello che è successo, questo spiace a tutti. però ecco, dice fa male sentirsi accusare di essere degli assassini, questo sì. Certamente io vi ringrazio, mi devo fermare qui, ringrazio davvero il presidente della provincia di Trento Ugo Rossi, ringrazio Licia Colò e ringrazio William Bonomi e concludo salutando con molto piacere colui che dalle 9 in punto, o meglio dopo il giornale radio, da lunedì riprenderà possesso di questa fascia oraria, Giovanni Minoli. Buongiorno Giovanni, come stai? Sì, ciao, benissimo, pronto lunedì a ricominciare. Spero che tu possa riposarti un pochino di più. Vabbè, la... fare mezz'ora in meno. Beh, ma la sveglia rimane alle 5, quella sì, la sveglia. Sei giovane, ti fa bene. Va bene. Allora, che cosa bolle in pentola? Ti rubo l'espressione, la rubo a voi per la nuova stagione di Mix 24. Beh, intanto consolidare il successo dello scorso anno sarebbe una cosa importante, perché è stata una sorpresa, una trasmissione abbastanza inedita che ha trasferito, diciamo, stili e schemi televisivi nella radio, facendo una sorta di radiovisione, e avremo la squadra, è quella, sei che butta fuoco con me tutte le mattine per cosa bolle in pentola e per i salamini, la quota rosa di Tardelli, di Sara Tardelli, che ha avuto tanto successo, la storia raccontata da Marina Milone, e poi oltre ai faccia a faccia naturalmente, che hanno fatto abbastanza notizie lo scorso anno, quest'anno per cercare di limitare l'effetto volume delle parole, ogni giorno faremo un fact checking, cioè metteremo le parole alla prova dei fatti, confronteremo scientificamente le dichiarazioni dei politici, dei manager, ma anche degli scienziati con la verifica della validità e della verità di quello che hanno fatto. Ecco, questo molto sarà è un modo di fare comunicazione molto, molto forte nella televisione americana. Noi vedremo un po' che cosa darà in Italia. Speriamo allora, risultati. Certo, allora tanti in bocca al lupo ovviamente, e io invece vi do appuntamento per quel che vi riguarda da lunedì alle 6:30. Grazie a Giovanni Minoli, a lunedì.